Welcome back. Buonasera e benvenuti alla seconda puntata della seconda. Riproviamola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi avviare il culturale. C'ho delle storie tese. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9! Un po' di scioglilingua. Sa. Prova. Ok. Benvenuti alla seconda puntata, seconda stagione di Ciò delle Storie. Eh sì, siamo qua. In compagnia di Nicola, di Gianluca. Tre tigri contro tre tigri. Ma che voce c'è, sexy c'hai Umberto oggi? Sì, ho appena finito il diaframma. Tra l'altro. Bravo, questo mi garba quando lo dici. Gli allenamenti del diaframma. Allora, siamo tutti qua e oggi parliamo della musica di protesta, della famosa protest music. Eh sì. Tra l'altro a differenza della prima puntata che eravamo in presenza, oggi siamo purtroppo tutti divisi, ognuno a casa sua. Ritorno alle origini. Tutto il setting davvero lockdown, esatto. Finalmente di nuovo su Discord, senza doversi vedere, senza doversi scambiare fluidi. Finalmente. Basta. Basta. I love you social distancing. No, non è vero. Bellissimo. Tutti adoriamo Eric Cartman. Esatto. Ma infatti volevamo tantissimo parlare di virus, di pandemie, però non ci sembrava il momento e quindi abbiamo deciso di parlare di musica, no? Sta arrivando. Esatto. Sta arrivando. C'è qualcosa ondata che intrattenga durante questo brutto momento, no? Eh sì, e cosa c'è di meglio della musica di protesta? La musica di protesta per come si è evoluta, no, in tutti questi anni. Non lo so, io per esempio preferisco, o comunque diciamo che voglio parlare un po' degli anni 70, ma soprattutto degli anni 2000, no? Perché è stata un po' la musica con cui sono cresciuto anch'io, la mia generazione, anche voi. E a guardarla adesso, no? A guardarsi indietro, secondo me si comincia anche a vedere un po' che cosa è stato, che ha contraddistinto un po' quel periodo. E quindi, sì, io sì, mi concentrerò su quello. Mentre invece Gianluca... Fondamentalmente si guarderà un pochino più indietro rispetto a quello di cui stavi parlando te, quindi magari ancora prima, gli anni 50, intorno agli anni 50, la nascita del rock and roll, che... Purtroppo, io direi così, col senno di poi, quindi per noi che ormai abbiamo vissuto tutta un'altra era e anche un altro modello di informazione culturale, ci sembra lontano, ci sembra finto quasi pensarlo come una musica di protesta, perché ora ci sembra quasi in un qualche modo mainstream. E invece, insomma, si può notare come era una cosa estremamente fastidiosa per la società contemporanea, quindi approfondiremo due parole su questo. Io invece porterò qualche esempio pratico di canzoni che sono state un po' degli inni in un certo senso, anche se non piace ad Umberto la parola inno, comunque sono stati un po', diciamo, importanti durante alcune proteste, e quindi sì, anch'io andrò un po' avanti e indietro nel tempo cercando di parlare brevemente, più che altro farò ascoltare pezzi iconici, che sono state fondamentali. Esatto. E poi abbiamo l'ospite. Buonasera a tutti. Un grande ospite che è anche l'unico vero esperto di musica qua dentro. Infatti ci voleva. Sì. No, dai. Siete degli ottimi allievi. Uno che ne ha ben donde. E quindi voi di cosa parlerete? Beh, allora, intanto si farà una bella introduzione un po' alla situazione della musica oggi, quella che è un po' più anche di moda per quanto mi riguarda, e ci aggiungerò anche un po' di notizie della settimana, perché è stata una settimana calda e quindi usciremo leggermente dalla musica e poi ci rientreremo. E quindi Diego, insomma, ci parlerà, non so, un po' dei periodi che vengono toccati già dagli altri e poi... Ma intanto vediamo, può essere tutto un work in progress durante la trasmissione. Tanto partiamo e vediamo dove va a parare. E allora partiamo subito. E la prima domanda che sorge spontanea è: ma questa musica di protesta dove si trova? Cioè, dove me la vado a cercare? Se devo parlare di musica di... come faccio a capire, no? Se è musica di protesta... Beh, la musica di protesta di base si trova in tutte le culture, ma molto più facilmente, di solito, in quelle, diciamo, oppresse, no? Per esempio l'Irlanda ha una lunghissima tradizione di musica di protesta che va da periodi molto antichi, della guerra con gli inglesi, fino ad oggi. Poi c'è tutta la musica dell'anti-apartheid, per esempio in Sudafrica, il punk inglese, alla Clash, ma se si va a guardare bene, persino Yankee Doodle è una canzone di protesta. Eh sì, perché di cosa parla Yankee Doodle? Io ho scoperto che Yankee Doodle è una canzone che è nata prima, però è stata usata moltissimo dagli americani quando erano ancora colonizzati dagli inglesi, e era una specie di dissing, fra virgolette, agli inglesi oppressori. Poi chiaramente la musica di protesta si occupa anche di femminismo, si occupa di razzismo, alle volte addirittura sembra però essere basata sul niente, cioè ci sono queste musiche che sono, diciamo, esteticamente di protesta, ma se poi vai a vedere bene che cosa dicono veramente, non lo so, a volte sembra che manchi un po' la sostanza, no? Però insomma, la mia storia parla soprattutto di Stati Uniti e parla solamente di musica mainstream, per così dire, perché se poi bisogna andare a vedere, no, la musica underground c'è sempre stata una dimensione di protesta, di opposizione, anche solo a quello che è la musica mainstream, penso all'hip hop, penso a tanta buona parte del punk hardcore. Però ecco, a me interessa soprattutto l'America. Quasi tutto quello che dico l'ho preso a piene mani da un video in inglese di Lindsay Ellis, infatti se volete andarvelo a vedere, si chiama Protest Music of the Bush Era, non sono sicuro di come si pronuncia. Comunque, insomma, la storia comincia con la guerra in Vietnam, no? La guerra in Vietnam comincia nel 55, ma le proteste cominciano un po' dopo, perché la gente comincia a chiedersi: ma perché siamo in questa guerra? Stiamo spendendo un sacco di soldi, sta morendo della gente... ma cosa c'entriamo noi con questa guerra? E fondamentalmente la risposta più comune è che è una specie di proxy war, come si dice all'epoca, per il comunismo, ma insomma non si capisce bene che cosa sta succedendo esattamente. E a un certo punto c'è una reazione forte verso la fine degli anni 60, cominciano ad esserci marce, cominciano ad esserci manifestazioni. E come sono queste manifestazioni? Cosa portano avanti come idea? Beh, fondamentalmente non sono tanto critiche verso l'establishment, quanto piuttosto a favore della pace. Sono proteste, sono manifestazioni che chiedono la pace. E a questo punto che cosa produce la musica, che cosa produce l'arte? Appunto, porta avanti molto questo tema della pace. Quasi tutte le manifestazioni appunto si oppongono fortemente all'intervento in guerra in Vietnam, vogliono riportare le truppe a casa, sono tutte cose molto precise, non è che è una protesta generica, è proprio, guarda, bisogna che ritornino le truppe, bisogna finire questa guerra. Punto. Penso per esempio a canzoni come War di Edwin Starr, ma anche i Creedence, Fortunate Son, proliferano un sacco di artisti all'epoca, Donovan, Cat Stevens, John Lennon. E insomma, una canzone che io ritengo molto esemplificativa di questa opposizione alla guerra e a quelli che sono favorevoli alla guerra è una canzone dei Creedence Clearwater Revival, che oltre a essere molto cari a me erano molto cari anche al grande Le Boschi, e quindi quanto ci teneva di più alle cassette dei Creedence che alla sua macchina, che al suo tappeto, e probabilmente sì, anche con la sua vita, perché vedi che casino che fa, ma non al White Russian, sì. Anche perché, se mi posso agganciare un secondo, John Fogerty, che poi era il compositore e cantante dei Creedence, prima di diventare cantante rock, aveva fatto militare, quindi aveva visto molti suoi pari che partivano per il Vietnam e poi non tornavano. Quindi è per questo che poi ha scritto Fortunate Zone. Infatti, come inizia Fortunate Zone? Dice, c'è gente che è nata per sventolare la bandiera, quella rossa, bianca e blu, ovvero quella degli Stati Uniti. E poi quando la band suona Hail to the Chief, che sarebbe la marcia militare che accompagna l'apparizione del presidente degli Stati Uniti, alla fine il cannone lo puntano verso di te. E quindi direi che a questo punto ci ascoltiamo sta canzone. Cosa succede? Beh, facciamo un bel salto. E nel 2001 qualcuno in diretta, magari mentre stava guardando Slam Dunk, almeno in Italia, si rende conto che qualcuno ha cercato di tirare giù, e probabilmente ci è anche riuscito, le Torri Gemelle. È un evento che è molto differente dalla guerra del Vietnam, se ci si pensa, perché la guerra del Vietnam era una cosa che si era vissuto molto indirettamente. Sì, c'erano i video, però non era una cosa che tutti avevano vissuto sulla propria pelle e in casa, no? Quindi gli americani questa cosa, beh, se la vivono, potete immaginare, in modo molto diverso da noi. Tant'è vero che nel 2004 Bush decide di invadere l'Iraq, tra l'altro sulla base di falsità fabbricate ad hoc. Nello specifico, il possesso di armi nucleari da parte dell'Iraq, che vengono dimostrate con una bella rappresentazione grafica 3D tirata fuori dal niente. Insomma, cioè, è proprio trasparente a un certo punto la disonestà, sia sull'evidenza che sulle giustificazioni etiche di questa guerra, tant'è vero che la Francia condanna il governo americano. Ma l'America non è tanto disposta ad accettare critiche. Cosa succede? Quando nel 2003 viene annunciata l'entrata in guerra, ben 32 milioni di persone in tutto il mondo scendono in strada con una specie di filo conduttore di queste proteste. E beh, nello specifico il motto che li accomunava un po' tutti era: gli estremisti sono nella Casa Bianca, gli estremisti sono nel Pentagono. Eppure l'Iraq viene invaso lo stesso. E inizia un'epoca un po' scura di politiche estere degli Stati Uniti, sempre che ce ne sia mai stata una che non fosse oscura. Però uno dice, vabbè dai, cioè almeno avremo della buona musica come negli anni 70. E invece, invece le cose sembrano andare un po' diversamente. Beh, cosa succede? Che dopo il 2001 inizialmente nella musica proprio c'è questa fase un po' di processamento del lutto, no? Ah, tutto questo dolore arrivato dal niente, come si spiega, insomma, un po' di tristezza, un po' di lutto, tutta questa, insomma, volontà di accettare il fatto, no? Sì. E poi però inizia tutta una serie di musica rock patriottica, tutta americana, c'è, cioè, una canzone che dice veniamo a infilarvi gli scarponi nel culo, tipo non dovevate rompere le palle agli Stati Uniti, cioè roba del genere, no? Una musica molto diversa da quella degli anni 70, a quanto pare. E tutta questa musica patriottica è una specie di movimento anti-antiguerra. Cioè, non contro la guerra, non a favore della guerra, ma contro quelli che vanno contro la guerra. Che schifo questa gente che scende in piazza, insomma. Il sentimento un po' è quello, il movimento un po' è quello. Se uno pensa, per esempio, alla Seconda Guerra Mondiale, anche lì c'erano canzoni patriottiche, no? Per convincere la gente ad andare in guerra, c'era anche tutto un organo propagandistico che si era messo in moto per portare la gente in guerra. Però all'epoca, Seconda Guerra Mondiale, le canzoni erano più tipo su quanto sono carini i militari, quanto sposali perché adesso partono e roba del genere, no? E nella Seconda Guerra Mondiale non c'era la stessa sete di vendetta che trasudava da questa musica propagandistica come nel 2004. Umberto, posso agganciarmi un secondo? A parte Woody Guthrie, che aveva chiesto il primo folk, cantante folk di protesta, che sulla chitarra c'era scritto This guitar shoots to fascist, quindi era già abbastanza schierato. Beh, direi sì. O quantomeno la sua chitarra lo era. Sì. Senza ombra di dubbio. Beh, insomma, mancava un po' questa sete di vendetta patriottica. E cosa succede? Succede che a un certo punto agli Oscar Michael Moore, quello di Super Size Me e altri film, sale sul palco degli Oscar e si permette di criticare Bush. Dice che non c'è ragione per andare in guerra, che ha fabbricato l'evidenza. Le stesse cose che aveva detto la Francia, insomma. Però viene fischiato. E lo stesso accade a tre tizie country, che sono fondamentali per quello che succede poi nei 5 anni a venire. Forse anche di più. Ci sono queste tre tizie country, che sono le Dixie Chicks, che sono texane, che a un certo punto vanno sul palco, fanno un bel tour nel 2003... E sul palco si presentano così, dicendo che sono contro la guerra e che si vergognano che Bush sia texano. All'epoca loro erano al top della loro popolarità. Cosa succede? Come reagisce il pubblico? Beh, in pratica cominciano a chiamare le radio a manetta per fare in modo che smettano di farle suonare. Addirittura la Croce Rossa americana si rifiuta di fare la partnership che aveva promesso con loro. E cominciano ad arrivargli minacce di morte. Tipo, una che ho letto dice proprio Natalie Main, che era una di queste tre, verrà uccisa con una pistola il 6 luglio. Tipo, cominciano ad arrivare lettere così, no? Escono da tutte le classifiche, la loro popolarità cade e in pratica non torneranno mai più a fare i concerti, a fare i numeri che facevano prima. Grazie per la libera espressione. Grazie per la famosa free speech americana, esatto. Complimenti. Che democrazia. Esatto. Bravi. Il modello della democrazia da esportare. Il modello. Esatto. È quella la libertà di parola, la libertà che hanno voluto esportare in Iraq e altri paesi. Comunque. Beh, insomma, le Dixie Chicks a un certo punto, non sapendo più che fare, provano a scusarsi, però è troppo tardi, no? Non ce la fanno. E quindi perché sono così importanti loro? Perché è proprio da lì in avanti che i musicisti si mostrano estremamente riluttanti ad opporsi alla guerra e soprattutto allo status quo. E qui si apre tutta una parentesi su quella che è stata l'estetica musicale degli anni 2000. Cioè, io penso... Se devo descrivere la musica degli anni 70, mi verrebbe da dire che era musica un po' arrabbiata, un po' cruda anche come suono, però molto onesta, molto intelligente anche. se uno la compara con la musica degli anni 2000, ecco, la musica degli anni 2000, se dovessi descriverla, beh, direi che suona parecchio stupida, tipo grossa, forte, rumorosa, molto piena, come se dovesse riempire un vuoto, no? Penso a Skater Boy di Avril Lavigne, per esempio, penso a 50 Cent, penso a certi pezzi di Eminem, penso a Milkshake di Kelis, no? Diciamo che le pop star di quel periodo lì non erano pop star depresse e pensierose come Billie Eilish oggi, per esempio, no? A meno che uno, cioè, sempre se si escludono gli Evanescence, e continuo a dire che mi parlo solo di musica mainstream qua. Sì. Beh, quindi come rispondono gli artisti a quello che succede alle Dixie Chicks? Beh, c'è Madonna, per esempio, che fa uscire American Life. Cosa dice Madonna in American Life? Madonna dice praticamente che se la sta vivendo male la sua popolarità, che nonostante abbia raggiunto il sogno americano e sia ricca, non è per niente soddisfatta. E quindi che questo stile di vita americano comunque le lascia un vuoto, ecco. Però, se vai a vedere bene, non critica niente direttamente, no? Continuiamo a pensare al Vietnam, a queste richieste molto specifiche di uscire dalla guerra. Niente di tutto ciò. C'è più una specie di piangersi addosso, che chiaramente segnala un problema sociale, però lo fa in modo molto più indiretto, molto più subdolo, diciamo, anche un po', no? Comunque non ce l'ho fatta a non pensare all'inizio delle Iene. Poi appena hai citato Madonna, ho detto adesso metto a parlare di Like a Virgin. È sempre stata controversa nei suoi pezzi, ecco. Beh, ma non lo so Tarantino cosa aveva in mente, però no, non era quello che avevo in mente io adesso. No, figurati, solo uno stupido aneddoto. Comunque, insomma, poi chi esce? Chi esce in quel periodo? Sempre nel 2003 escono i Black Eyed Peas, Where is the Love? Che anche quello è un pezzo che è chiaramente per la pace, però anche lì fa tipo una specie di plead for peace, fa una richiesta di pace nel mondo, che anche quella suona molto vaga, suona molto indiretta. Nel 2004 esce un disco, una compilation, che in realtà non è neanche molto mainstream, di Rock Against Bush, dove ci sono tipo canzoni degli Offspring del 92 o canzoni di artisti completamente irrilevanti, con Bush che piange sulla copertina, con una cassa, un Marshall nello sfondo, come per dire, haha, beccati questo Bush, abbiamo il Marshall. Fantastico. Vabbè. Comunque, insomma... e poi chi altro esce? Escono i System of a Down, per esempio, no? I System of a Down con Biob, che sarebbe Bring Your Own Bombs, porta le tue bombe, che dice tipo, beh, roba tipo, why do they always send the poor? Perché mandano sempre i poveri in guerra? Escono gli A Perfect Circle con Counting Buddies Like Sheep. Anche lì il video magari è un po' più esplicito, perché c'è Bush che cavalca su un lago di sangue mentre la gente lobotomizzata guarda la televisione. Però se leggi il testo anche lì resta sempre molto molto vaga. C'è Neil Young che chiede di fare impeachment al presidente, fa uscire una canzone, si chiama Let's Impeach the President. Qualcosa fanno i Beastie Boys, qualcosa fanno i Pearl Jam. Eminem fa uscire Just Lose It e viene investigato dai servizi segreti, perché non aveva detto mai che voleva uccidere sua madre in altri testi. Chiaramente, se nomina Bush, beh, ci sarà qualcosa sotto, no? E poi c'è un'eccezione notevole, ragazzi, io ho dovuto rivalutare un botto questo gruppo. Britney Spears. No, Britney Spears l'ho rivalutata solo ultimamente, negli ultimi 2 anni. All'epoca Britney Spears, se la prendono tutti con lei, si è rinchiusa. Beh, no, chi esce? Chi è questo gruppo così importante che sembra andare un po' contro tendenza rispetto a tutti gli altri? È il vero album contro la guerra dell'epoca di Bush, della guerra in Iraq, è American Idiot dei Green Day, ragazzi. Mi dispiace dirvelo. Ma loro sono quelli che si sono opposti più direttamente, a quanto pare, alla guerra in Iraq. E questo la dice lunga. Eh sì, perché esce per esempio American Idiot, che è abbastanza esplicito, ha un sound che riflette un po' quell'epoca lì, no? Perché è un punk che non è più il punk iniziale, è un punk molto più annoiato e pigro, è tipo un punk da adolescente bloccato in paese, nella cameretta, che non c'ha niente da fare, no? Però è un punk anche felice, è un punk, sappiamo che ci stanno tutti prendendo per il culo, ma siamo contenti lo stesso, no? E quindi, per esempio, American Idiot rispecchia perfettamente questo stile, è una canzone del suo tempo, è una canzone che riesce a entrare nelle classifiche, eppure è una canzone critica, direttamente critica. E quindi, insomma, c'è da dire che è vero che i Green Day non nominano direttamente Bush, però questa è una cosa che succedeva anche negli anni 70. E quindi mi viene da pensare che ci siano cose che non sono tanto cambiate nel 2000 degli anni 70, nello specifico che non puoi nominare direttamente il presidente come responsabile della guerra, perché altrimenti viene censurato. Quindi, insomma, perlomeno qualcosa non è cambiato dagli anni 70. E quindi ci ascoltiamo anche American Idiot a questo punto, oppure forse anche meglio Holiday. Anche Holiday, il cantante dei Green Day, ha detto che lui si riferisce a questa vacanza perché questa vacanza sarebbe un po' l'apatia politica degli americani della sua generazione. Viviamo questa guerra come se non fosse nostra, viviamo la politica come se non potessimo farci niente, viviamo un po' come se fossimo perennemente in vacanza. Ragazzi, mi dicono che Super Size Me non è di Michael Moore. Io chiedo venia, mi prostro davanti alla platea e ai nostri ascoltatori, o meglio al nostro ascoltatore. La regia. sì. Vabbè, Michael Moore ha fatto fare 9-11, ha fatto, ne ha fatti altri. Super Size Me, esatto. Bowling at Columbine. Ne ha fatti altri belli. Ma quello no. Scusate, sono confuso in questi giorni. Può succedere. Vabbè, diciamo che mi sono confuso, dai. Comunque molto meno confusi erano gli americani, che nel 2004 vanno alle elezioni e chi decidono di votare? Ma chiaramente Bush, che vince di nuovo le elezioni. E è lì che il movimento anti-Bush muore un po'. Muore senza un po', muore proprio del tutto. Ci sono molte meno canzoni di protesta e molte più canzoni invece che magari sono un po' tristi per come stanno le cose. Diciamo che c'è una fase di accettazione, tipo penso alla canzone di Pink, Dear Mr. President, cioè non c'è nessuno che condanna. Ci sono molti che magari si chiedono, ma che cos'ha in testa Bush per continuare a fare questa guerra, ma cosa avete in testa? C'è un po' una fase di accettazione di un mondo che ormai è diventato antirivoluzionario. Gli unici che continuarono a protestare furono Neil Young, Springsteen, Michael Stipe, Patti Smith, che continuavano a fare il tour in giro per l'America di okay. Vote for Change. E collegandomi anche al pezzo che ho scelto prima, spesso Neil Young e Springsteen facevano Fortunate Son dal vivo, dedicato però a quelli che sarebbero partiti per l'Iraq e non per il Vietnam. È bellissima questa cosa, non la sapevo. La vecchia scuola questa, giustamente, perlomeno la generazione precedente a quella che ignorava o faceva finta insomma di non vedere, si è mobilitata. Tra l'altro doveva essere un concerto della Madonna con Patti Smith e Neil Young. Una gran figata, assolutamente. Sì, altro sì. Che... Beh, però insomma diciamo che in generale, no? C'è questa, almeno nel mainstream, c'è questa accettazione di questo mondo che ormai, dove ormai anche la musica di protesta è diventata un po' antirivoluzionaria, nel senso che ci si rende conto che la lotta stessa è in pari, che il tavolo è truccato, dobbiamo solo aspettare e sopravviveremo. Ormai c'è toccato Bush. Non è più solo la guerra ad essere ingiusta, diventa proprio tutto il mondo ad essere ingiusto, ed è lì che inizia un po' una paralisi che io non so nemmeno dire se è finita, sinceramente. Sui contenuti ce n'è pochi, in tutti i generi, purtroppo. Però, io spero che si possano fare tante eccezioni. Io ho parlato dell'America, per esempio, ma già secondo me, se ci spostiamo in Italia, non lo so, forse le cose sono andate un po' meglio. Che dici tu, Nick? Ma in Italia sì. Sì, ci sono varie canzoni di protesta, comunque ce ne sono state molte nel corso degli anni. Ora appunto io mi sono concentrato principalmente su due, almeno per quanto riguarda l'Italia. Però prima volevo, sì. Diciamo dal tuo racconto, volevo aprire una parentesi che è su Cat Stevens, che te appunto l'hai nominato. Inizio comunque negli anni 60-70 appunto faceva canzoni di protesta negli Stati Uniti prima di rischiare di morire e convertirsi all'Islam, e poi infatti è troppo bello perché non so se ve la ricordate, ma nel 2004 appunto dopo l'attentato alle Torri Gemelle finì nella lista di probabili terroristi islamici e gli fu negato il rientro negli Stati Uniti perché cambiò nome e divenne Yusuf Islam. No, e quindi è troppo bello. Fantastico. Esatto, infatti Cat Stevens adesso si chiama Yusuf Islam, si è convertito all'Islam e ha ancora più problemi con gli Stati Uniti di quanto non avesse prima, di quando era Cat Stevens. Appunto, insomma, quindi volevo aprire un attimo questa parentesi perché me l'hai fatta venire in mente. Insomma, è abbastanza esemplificativa, diciamo che lui ha vissuto sulla propria pelle tutto di quello, cioè diciamo tutto quello di cui hai parlato fino ad ora. Sì, ha vissuto anche cioè, mi immagino che essere un artista di punto della propria nazione e poi venire rifiutato così sulla base discriminato, no? Anche sulla base di una scelta religiosa. Beh, insomma, non mi sembra molto 2000s, diciamo. No, però sembra molto statunitense, ecco. A questo punto sì, ma non è che poi, vedi questa accettazione, che ci paralizza. È vero. E invece, insomma, chiusa questa parentesi, vabbè, in Italia, insomma, tantissime canzoni, insomma, ce ne sono veramente tante di canzoni che sono state appunto prese come bandiere, in un certo senso, per ogni movimento di rivolta o protesta. La prima che mi è venuta in mente è stata comunque, diciamo, quella che ha colorato il 68, che è Contessa, di Paolo Pietrangeli. E sostanzialmente lui segna un po' il passaggio di quello che era il, diciamo, verso la fine degli anni 60, i primi 70, appunto, fioriscono i primi importanti cantautori italiani, quelli che si possono chiamare impegnati, in un certo senso, no? Quindi si lascia da parte un po' quello che è l'easy listening, no? Lascia orecchiabile, tutta cuore, amore, e si cominciano a cavalcare temi di grande respiro, sociali, politici, quindi legati anche un po' a quella che è la rivalsa popolare. E insieme a lui ci sono tanti cantautori che avevano appunto iniziato in quel periodo, e Pietrangeli si colloca appunto su questa scia e compone canzoni che concedono poco alla melodia, al sentimento della tradizione, dei canti di lotta operai, soprattutto perché comunque il 68 è un movimento operaio e studentesco, tanto che appunto con questa canzone Contessa, diciamo, comincia a farsi breccia nel cuore della gente, e infatti diventò subito il vero inno delle occupazioni studentesche del 60. Chi era Pietrangeli? Pietrangeli era uno studente comunista, lettore di classe operaio, e la scrisse nel maggio del 66 durante l'occupazione dell'Università di Roma. Occupazione seguita all'uccisione dello studente Paolo Rossi da parte dei fascisti il 27 aprile. E la scrisse in una notte, dice, no? Come si può leggere anche su Wikipedia, prendendo spunto dalle conversazioni che una certa vecchia borghesia faceva a proposito di tese orge sessuali, dalla cronaca di un piccolo sciopero avutosi a Roma in una fabbrichetta, dove il padrone, appunto Aldo, la polizia contro i suoi operai che facevano picchetti. E quindi, insomma, direi che questa è una canzone che diciamo, ma vale la pena ogni tanto risentirla, anche perché comunque riviviamo un periodo di proteste. Per ora sono state in alcune città, che in altre, diciamo, più partecipate. Però secondo me da qui nei prossimi anni rivedremo, dal mio punto di vista, anche fortunatamente, una riappropriazione degli spazi pubblici da parte del popolo. E quindi direi che ce l'ascoltiamo. Ma non è così. Piccolo problema tecnico. Forse perché è la versione karaoke. Allora. Vabbè, qui qualche bot sta non cooperando. Questo qua è YouTube che ci boicotta, ovviamente. Vabbè. Messo... vediamo. Vediamo se è questa. Dai. Questa è quella vera. Questa è quella vera. Che roba Contessa, all'industria di Aldo han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce e portate il martello, piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema. Voi gente per bene, che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione. Del resto, mia cara, di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale, contessa. Se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte. Se c'è chi lo afferma, non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire. Se c'è chi lo afferma, sputategli addosso, la bandiera rossa gettato in un fosso. Voi gente per bene, che pace cercate, la pace per far quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Ma cos'è questa storia che anche l'operaio vuole il figlio dottore? Ma non lo so, non lo so. Da ma non c'è più qua. Morale, guarda. Contessa, che roba. Una storia vecchia. Che roba, signora mia. Comunque sì, questa era diciamo la versione originale, che poi tutti la conosciamo invece nella versione dei Modena, che comunque sono bellissimo. Stati bravi diciamo a mantenere vivo il ricordo di questa canzone anche ai giorni nostri. Assolutamente. Anche perché la maggior parte della gente cerca di dimenticare Pietrangeli, visto che sto regista di Maurizio Costanza Show poi in epoca era iscritto al PC e faceva il regista sulla Mediaset. Era un infiltrato, compagno. Esatto. Era un infiltrato. Sì, ma, è vero. Ma è lui che ha lasciato entrare Carmelo Bene, quindi? Non lo so, bisognerebbe chiedere. Non lo so, però è vero, grandissimo. Vabbè, un altro grandissimo Carmelo Bene. Faremo una puntata anche su Carmelo Bene. Me la sento, su Carmelone. Quindi questo, diciamo, era un po' l'Italia del 68, le lotte operaie del 68, lotte studentesche, lotte contro comunque l'uccisione di uno studente da parte dei fasci. Poi, non lo so, la mente viaggia, cioè è un tema enorme, sarebbe da parlare di tantissime cose. Cioè, un'altra storia bellissima che si interseca con l'Italia, per esempio, è quella degli Inti Illimani. Gli Inti Illimani, appunto, che sono questo gruppo cileno, che significa sole di una montagna nelle vicinanze di La Paz, in Bolivia. Tutto insieme? Tutto insieme a quanto pare sì. Va bene. Sintetico. Esatto. Che sono un po' gli ambasciatori del patrimonio musicale latinoamericano, almeno cioè, per quanto riguarda la world music, e la loro è una delle storie comunque più esemplari della canzone popolare del dopoguerra. E soprattutto canzoni scritte in un'epoca che, come si diceva prima, mescolava utopie, sperimentazione esistenziale, impegno civile, trattava temi di decolonizzazione dei popoli, classi sociali, gerarchie. Il problema è che il vecchio ordine era solito reagire in maniera abbastanza violenta a queste richieste e a queste proteste. E quindi che cosa succede? Quando gli Intillimani nel 73 vengono a fare un tour in Italia, in Cile c'è il golpe di Pinochet, che sostanzialmente provoca la morte di Salvador Allende, e gli Intillimani non possono più tornare in patria e quindi rimangono in un certo senso bloccati in Italia per 15 anni, fino all'88. E in questi anni comunque in Italia si sono fatti voler bene da tutti e tutte, e comunque la loro musica non ha mai smesso di essere importante, sia per noi che per, ovviamente, per il popolo cileno. Comunque, Nicola, se mi permetti, all'epoca, durante la dittatura di Pinochet, in Cile ci fu un cantautore che si chiamava Victor Jara, che fu ucciso durante un concerto. Esatto, fra l'altro lui suonava anche con loro, comunque aveva suonato con loro. Esatto. Il regime di Pinochet, che tra l'altro si rivelò incredibilmente compatibile con le politiche economiche di Reagan e dei Chicago Bulls. Casualmente incredibilmente. Chi avrebbe mai detto che il totalitarismo... Uno dei primi esperimenti, no? della scuola di Friedman. Eh sì, che, cioè, chi l'avrebbe mai detto che il capitalismo più sfrenato e libero fosse compatibile poi con un regime totalitario capace di sparare a uno mentre sta cantando? Fatto sta che gli Intillimani sono riusciti a tornare a casa, anche se poi Pinochet è riuscito a morire senza essere processato. Quindi, insomma, vabbè. Qui, vabbè, nel senso, vorrei troppo fare ascoltare alcune canzoni degli Intillimani, ma andiamo oltre, tanto spero che le conosciamo tutti. Non lo so, un'altra storia molto bella, e che, diciamo, è entrata nella vita di tutti e nelle cronache di tutti, è quella di Sixto Rodriguez, per esempio, che nel 2013 c'è stato fatto un documentario da un regista norvegese e che ha vinto addirittura l'Oscar, e quindi da lì, diciamo, la storia di questo cantautore di Detroit è diventata famosissima. Ed è una storia bellissima, non si può dire altro, è veramente una storia bellissima, che sostanzialmente parla di questo operaio di Detroit, nato nel 1942 in Michigan, che registra nel 1970 il suo primo album, Cold Fact, e l'anno successivo addirittura il secondo, che è Coming From Reality, ma questi dischi non vendono, e quindi lui decide di abbandonare totalmente la carriera musicale e di tornare al suo lavoro. Poi lui ha tre figlie che deve comunque crescere e mantenere, e così, diciamo, la chitarra finisce in un angolo, e nel frattempo però i suoi 33 giri arrivarono copiati, passati di mano in mano, sa come, in un certo senso, in Sudafrica, dove i suoi testi lirici impegnati divennero la colonna sonora che si ribellavano all'apartheid e iniziavano a mettere comunque in discussione tutto l'establishment. Tutto questo però avviene completamente all'oscuro di Sixto Rodriguez, nonostante comunque ci siano delle persone negli Stati Uniti, probabilmente la sua etichetta, che si è arricchita a sue spese. E non sarebbe la prima volta. Fatto sta che nel 1996 sono troppe le persone che si abbia fatto Sixto Rodriguez, e qualcuno inizia addirittura a mobilitarsi per cercare. Cominciano a crearsi leggende metropolitane che lo vogliono morto di overdose, chiuso in un manicomio, o addirittura voci che dicono che si sia dato fuoco sul palco durante un concerto. Fatto sta che passa altro tempo e arriva internet, arriva il web, e nel 1997 viene pubblicato da un cittadino sudafricano, viene creato un blog che si chiama The Great Hunt Rodriguez, che incredibilmente la figlia di Sixto ha la fortuna di visitare. Da lì quindi la figlia dice: guardate che non è morto, è vivo. È vivo e canta per noi. E quindi hanno sostanzialmente quest'uomo caduto completamente nel dimenticatoio di Detroit, a fare una vita normale da operaio, gli viene comprato un volo per il Sudafrica, scende da questo aereo in Sudafrica e all'aeroporto c'è una folla di decine di migliaia di persone che lo idolatrano, e a quel punto parte un tour in Sudafrica, ed è una storia veramente incredibile, una storia incredibile. È incredibile la serendipità, no? Eh sì, esatto, cioè lui non sapeva non, cioè lui credeva di aver venduto 6 dischi probabilmente alla cugina, allo zio e all'amico del e invece le sue canzoni sono diventate importantissime per un movimento di protesta contro l'apartheid. A questo punto bisogna ascoltare almeno di lui un pezzo. Bellissimo, bellissimo, bellissimi tutti e due i dischi, in realtà, quindi consiglio di guardarli e anche di guardare il documentario che si chiama Searching for Sugar Man. E niente, concludo diciamo con un'ultima storia, una storia tutta italiana e recente, una bellissima storia dove la musica ha svolto un ruolo fondamentale nella riappropriazione di uno spazio che non doveva essere pubblico, ma che poi da pochi giorni lo è diventato. Questa storia si svolge a Roma, sostanzialmente, vicino al Pigneto, ed inizia nel 1954, epoca in cui lo stabilimento che produceva viscosa, ossia seta artificiale, ubicato proprio lì al Pigneto, chiuse i battenti. L'opificio era allora di proprietà della Casa Viscosa, già Società Generale Italiana della Viscosa, e negli anni 20 del secolo scorso erano uno dei più grandi stabilimenti italiani. Poi nel corso degli anni si sono succedute tantissime proprietà, comunque è sempre stato uno stabilimento privato, fino a che a un certo punto, diciamo nel 1990, l'intera proprietà fu ceduta da questa società immobiliare Pinciana 188 per farci sostanzialmente un centro commerciale di 6 piani, una roba bella tranquilla. Oh, un bel centro commerciale. Un bel centro commerciale. Che fai? Non lo fai un centro commerciale? Quando non sai che quando non sanno che fare, fanno un centro commerciale. Tanto lo con Amazon. Però è andata male, finalmente. E il costruttore probabilmente non si era letta la storia della località, che un tempo si chiamava Acqua Bullicante, e c'è ancora oggi fra l'altro una via con tale nome, ne sapeva appunto che proprio lì sotto scorreva il fosso della Marranella, mentre ancora più in profondità si trovava una falda acquifera a soli 5 metri dal piano di campagna. Insomma, acqua in ogni dove. Risultato, a causa delle perforazioni, l'acqua sgorgò in superficie ed a nulla valsero i tentativi dell'impresa per evitare di perdere l'appalto, di assorbire il flusso con delle idrovore. Insomma, fatto sta, cercarono di nascondere l'acqua da tutte le parti, ma non ci riuscirono e si formò un lago. Nel frattempo, alcuni consiglieri comunali verdi avevano denunciato la falsificazione della mappa catastale del piano regolatore generale, che riguardava tutta l'area, che da area servizi pubblici M1 di colore rosa era diventata di colore azzurro come area MP3 destinata all'edilizia privata. Insomma, dai, un piccolo accorgimento per rendere l'area fabbricabile, sostanzialmente. Però, grazie alla lotta degli abitanti del quartiere, nel 94 il Comune di Roma approvò il progetto di sistemazione a verde di una parte di questa area ed in contemporanea avviò la procedura di esproprio. E quindi oggi in quest'area, invece che esserci un centro commerciale, c'è un lago, quindi uno spazio pubblico, che gode di ottima salute, l'acqua è balneabile, è purissima e insomma, un'altra bella storia. Oggi siamo di belle storie. Sì. Davvero. E quindi sostanzialmente al posto di quello che doveva essere un centro commerciale, oggi c'è un lago ubicato in una delle zone a più alta densità abitativa d'Europa. C'è un'area con circa 124.000 abitanti. E la storia di questo lago è veramente poco conosciuta ed è stata raccontata di recente da Michele Boato nel suo libro Quelli delle cause vinte, in cui narra appunto le belle storie, anche se purtroppo rare, in cui grazie alla sensibilità ambientale di pochi, singoli cittadini, associazioni e comitati, si sono vinte cause importanti per salvaguardare l'ambiente. E grazie a loro, ma anche agli assalti frontali, questo lago da oggi è tutelato. La musica in questo caso appunto ha svolto un ruolo importantissimo, soprattutto gli assalti frontali, che hanno dedicato a questo lago e a questa lotta due canzoni che sono uscite nell'ultimo disco che hanno fatto. Ah, l'ho sentita, e che figata. Io... È il lago che combatte, sì, che sì, è sì. Molto bello ed è un rap sostanzialmente in cui si narra tutta la storia di questo lago. Ma siccome io ve l'ho appena narrata, non ve la farò ascoltare, ma vi farò ascoltare sempre gli assalti frontali in un pezzo a me carissimo, che è comunque anche questo un gran pezzo di protesta e che... Assalti frontali che poi fanno parte della storia dell'hip hop in Italia, cioè sono stati fra i primi nelle posse. Esatto, a fare comunque anche testi molto politici. Sì, di certo loro facevano parte della frangia un po' più attiva, attivista. Dacci fretta. Dacci in fretta quello che ci spetta. Dovete darci il denaro, sì. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. E poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Forza, ora dividete la grana. Siamo soci alla pari nella società umana. Banchiere, vieni in strada, datti una calmata. Dacci il bottino, tira fuori i soldi e paga. Dacci il denaro, il primo di ogni mese. Mandiamo avanti il mondo, ne abbiamo spese. Firma l'assegno, dacci un taglio e fai bravo. Qui nessuno vuole essere il tuo schiavo. Noi non abbiamo freni, dove va il nostro passo? Lì va la vita e tu vai all'incasso. E se ora il fratello punta il cuore dell'idiota, diretta al suo conto, gira la ruota. Noi sappiamo quanto l'obbedienza e l'onestà non porta in questa vita la felicità. Perché di ricchezza nel mondo ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso è tasca di chi è. Dovete darci il denaro. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Della terra la facciamo noi. Piramidi in Egitto le abbiamo alzate noi. Il fondo di miniere lo scaviamo noi. L'uomo sulle stelle ce lo mandiamo noi. Ogni informazione a sangue di noi. Ogni rivoluzione inizia solo se ci siamo noi. La ricchezza della terra la facciamo nel cenè. Ma la parte che ci spetta adesso in tasca di chi è? Grandi produttori, dalle elementari. Siamo sempre al lavoro e non bastano orari. Con le nostre azioni voi incassate denari. Con i nostri denari fate i profitti stellari. Quando lo scrittore dà potenza alla rima, è la voce del banchiere che ha l'opzione per prima. Quando un hacker sforza accesso ai sistemi, è il banchiere che rivende risposte ai problemi. Sono il biologo o no, che lavora nei geni. Banchieri arrivano e brevettano i semi. Sono i medici o no, che lavora nei vaccini. Banchieri mettono brevetti sui nostri destini. Ecco i parassiti, ecco la malattia. Succhiano, succhiano la nostra energia. Poi fanno un break in Polinesia a comprare terre selvagge e fondali del mare. Volo un aereo privato fiammante. Cena in villa dell'amico presidente. Parlano di quanta libertà, quante possibilità ci sono in questa nostra società. Ma se guardi bene tra i ricami, tra tessuti e bottoni, c'è un'anima cucita di milioni di nomi, che poi va a letto sul nudo pavimento come un nuovo originale tipo di parcheggio a tempo. Dovete darci il denaro, dovete darci il denaro e poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Città di chi pensi che sia, sta città di chi pensi che sia. Sa il primo boom che succede nella via, tu corri, corri dai fucili della polizia. Sta città di chi pensi che sia, ma sta città di chi pensi che sia. Sa il primo boom che succede nella via, tu corri, corri dai fucili della polizia. E chi credete davvero di essere voi? Chi credete davvero di essere voi? Chi credete davvero di essere voi? Che prendete 500 volte più di noi. Dovete darci il denaro, dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Dacci fretta, quello che ci spetta. Dacci fretta, quello che ci spetta. Dacci fretta, quello che ci spetta. E quindi bellissimo, musica di protesta. Abbiamo parlato un po' della guerra del Vietnam, abbiamo parlato degli anni 70, degli anni 2000, abbiamo parlato con Nicola di Sixto Rodriguez, dell'apartheid, dei movimenti operai in Italia, abbiamo parlato di oggi. E adesso dove andiamo? Dove andiamo a parlare? Benissimo, benissimo. Ci allacciamo comunque appunto all'argomento di Nick, al rap, diciamo, hip hop, la scena di adesso. L'altra settimana è uscito l'album di Jimmy Tights, VC9, che a me è piaciuto molto. È un genere a cui mi sono approcciato negli ultimi anni, l'hip hop, il rap, la scena italiana, ma devo dire che comunque ci sono delle cose molto interessanti, altre meno, purtroppo, però, che sono, come sempre, la musica allo specchio sfaccettato della nostra cultura. Quindi, insomma, io l'ho scoperto da poco, ho ascoltato qualche traccia, insomma, un mixtape molto interessante, tra l'altro uno dei pochi che vengono ancora fatti, perlomeno, dal mainstream, perché ormai Jimmy Tights è famoso, ma continua a regalare il suo mixtape, addirittura ne ha fatti due nel giro di due anni, quindi insomma tanta roba dopo un bel tempo, un bel periodo che si era fermato, e si ritrova un po' di contenuti che si erano persi negli ultimi anni comunque, no? Perché l'hip hop, il rap in generale è diventato la musica del momento, soprattutto dei giovani. E questo l'ha reso pop, nel senso che ha cominciato a trattare argomenti che non erano più di cultura. Per esempio, insomma, 20 anni fa con Frankie Energy e altri esponenti si aveva un rap che appunto era sociale, insomma, diceva anche cose scomode riguardo allo Stato, la mafia e insomma chi più ne ha più ne mette, ingiustizie sociali e politica comunque a go go, però questo non riusciva a sfondare proprio perché di nicchia, cioè il gruppo di ragazzi che facevano rap, se la cantavano e se la suonavano un po' tra di loro, seguendo anche la old school americana, e quindi no, dei contenuti appunto dell'azione oltre alla parola. Comunque no, il rap nasce proprio come movimento culturale in zone povere, dove però tramite appunto la musica si cominciava a portare cultura nelle banlieue, o comunque, cioè, prendendo la Francia per esempio, insomma, nei luoghi di povertà delle grandi città. E sembra che questo stia tornando, perché proprio un esponente come Jamie Tights vede le nuove leve che si perdono dietro alle grandi marche, al fatto di fare soldi, e tralasciano insomma le cose di cuore, le cose di petto, che invece hanno sempre contraddistinto il rap. No, parlavi prima Umbe di 50 Cent, quella generazione che un po' ha sfondato le porte del mainstream, però ha tolto la qualità vera del rap, che appunto era quella di portare lo stay real, cioè io vivo la strada e ti parlo di com'è il mondo in questo momento. Quindi sì, sembra che si siano lasciati qualcosa alle spalle un po'. Ed è un po' una cosa che, no, era successa, come si diceva negli Stati Uniti, il grande sistema, il sistema economico e della band. L'attrezzatura così professionale che ci troviamo ad usare ovviamente ci permette anche l'affidabilità di uno studio altrettanto professionale. D'altra parte ricordiamo lo sponsor, ringraziamo lo sponsor e il nostro ascoltatore, speriamo che avrà pazienza. Forse è il solito lo sponsor e l'ascoltatore, tipo nessuno. Ma comunque parlavamo di hip hop, ma hip hop adesso, ma a me sembra più rap che hip hop. Appunto, è l'unico, non so, commento sì, che potevo fare anch'io. Cioè, da una parte si parla di cultura quando si parla magari di hip hop, e quindi ha senso magari anche, non so, Frankie Energy o certi altri contenuti. Mentre magari il rap poi si è sviluppato anche come una forma più, non lo so, oserei quasi dire tecnica anche di performance, di stile di canto. E sì, si è abbandonato un po' ciò che era proprio la cultura hip hop, cioè proprio del ghetto, di cui faceva parte poi i graffiti, il DJing e tutto il resto, e fra cui anche il rap, che è il modo di interpretare una canzone, che è quello che poi hanno portato avanti tutti quelli oggi, però tralasciando poi tutto ciò che erano i temi sociali che c'erano all'inizio. Qual è la differenza fra hip hop e rap, no? Quindi l'hip hop sarebbe la cultura, in esatto, generale, di cui il rap è una parte. Esatto. Estrapolato, sì, dalla sua cultura, è stato riutilizzato da vari artisti, fra cui per esempio i primi con cui se la prendevano molto, almeno in Italia, mi ricordo, erano Jovanotti, magari spesso e volentieri gli Articolo 31. Vabbè, anche lo stesso Caparezza, che poi è bravissimo, niente da togliere, però secondo i veri rapper non è hip hop ma è rap, sì, perché sì, il suo modo di cantare. Però poi che si distacca da tutto ciò che è la cultura. Ma poi appunto, già quando una cosa la definisci una cultura, la puoi abbracciare più o meno, ci puoi entrare più o meno. Mentre uno stile è una cosa che in un qualche modo, sì, se ti piace, lo adotti all'interno delle tue performance artistiche, o comunque si vogliono definire. Gil l'abbiamo perso definitivamente. Se no, potrei fare due parole io su quello che si era detto del rock and roll, perché alla fine ci aveva a che vedere anche con quello che stava dicendo Gil, non un po' la musica dei giovani. Cioè, quello era proprio nudo e crudo il senso di come era venuto fuori il rock and roll, cioè una presa di posizione di una generazione che sicuramente quella giovanile in qualche modo ne aveva anche risentito, perché uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale i morti sono stati dei numeri così spaventosi da lasciare ovviamente un segno importante, quindi anche in qualche modo c'è stata un'esaltazione della gioventù in quanto tale proprio. E quindi è buffo vederlo ora, e magari a volte ci fanno anche ridere i testi, no? Perché sembrano cose abbastanza stupide e banali, perché noi siamo cresciuti con le veline in televisione per i Zoma fondamentalmente, però questo è... sono cose alte. Appunto, mentre lì anche i giochi su quella che poteva essere la sessualità, la libertà che ti dava comunque, no? L'andare a giro insomma con la macchina, il fine settimana quando era finita la scuola... E andare nel locale dove c'era il jukebox, che quindi era una cosa anche quella super nuova, che era da giovani, eccetera, eccetera. ha creato proprio una cultura identitaria. E in che modo è stata di protesta? Beh, sicuramente dal punto di vista dell'establishment, anche per quanto riguarda la musica, no? Perché il rock and roll, e sicuramente poi dopo ancora di più il rock in sé, ma comunque è stata una fusione di sicuramente musica che tanto aveva a che fare con la protesta. Si sta parlando di primariamente, poi ci se ne potrebbe mettere dentro un'infinità di generi, ma insomma blues, rhythm and blues e country, quindi comunque tutta roba che viene fuori da, come dicevi te Umba all'inizio, una sorta di oppressione senza ombra di dubbio. E per quanto riguarda il blues, sicuramente la musica degli afroamericani, che però era anche rivolta agli afroamericani, e badiamo bene che nell'America degli anni 50 c'era una polarizzazione estrema per quanto riguardava il razzismo, cioè per noi ora magari può essere difficile da contemplare, ma c'erano veramente all'inizio i primi, non so, entrate separate o cose che adesso ci fanno ridere anche solo a pensarci, però fondamentalmente lì era così, e quindi creare una mescolanza, una fusione tra, si diceva il blues appunto, ma anche il rhythm and blues, fondamentalmente lì è una musica di afroamericani, magari velocizzata e elettrificata, perché Gibson cominciava a fare le prime cose appunto con l'amplificazione elettrificata, e la country, che chiaramente è una musica più identitaria della società, quella bianca, ma allo stesso tempo, come dire, del popolo, quello più contadino, e quindi in un qualche modo comunque anche lì emarginato o oppresso. E quindi lì invece era una musica fatta da musicisti bianchi per un mercato di gente bianca, cioè c'era proprio una polarizzazione reale anche nel mercato, che era un mercato culturale realmente. Il rock and roll quindi confonde tutto questo, perché era una musica che poteva essere suonata letteralmente da chiunque, musicisti bianchi, neri, non aveva importanza, e il target era altrettanto fondamentalmente chiunque, non aveva importanza. E quindi questa era una cosa che cioè, fondamentalmente era urticante per la società contemporanea che esistesse una cosa del genere, e ancor più che tutti i giovani ne fossero estremamente presi, e che quindi poi insomma c'è il classico scenario alla Fonzi, mi viene in mente, insomma, che può essere una referenza che torna a tutti. È bellissimo comunque, sì, ripensarlo così gli dà un valore completamente diverso, e non lo so, uno dei grandi che Chuck Berry ci ha lasciato con un pezzo che appunto rappresenta veramente in pieno, anche per quanto riguarda il testo, questo fatto della scuola, del dove andare a scuola e dove rispettare quello che ti dicono, per poi non trovare, insomma, non aspettare altro che il momento per staccare, per andare a giro, per fare tutte le cose da giovani, e che appunto li identificavano come tali. Quindi sentiamocelo nell'attesa che ritorni Jill. Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule, American history and practical math. You study them hard and hoping to pass, working your fingers right down to the bone, and the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell, the cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat, you're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books, gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat, down the halls and into the street, up to the corner and round the bend, right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot, you gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance, all day long you've been wanting to dance, feeling the music from head to toe. Into the slot, something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. The drums loud and bold. Eccoci qua, ne abbiamo perso uno, ma per il resto ci siamo ancora tutti. Beh sì, fondamentalmente sì. Ma insomma abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo parlato anche degli anni 50, abbiamo coperto più o meno tutto. Ma te Diego, ti è venuto qualcosa in mente? No, ora stavo pensando, sì, legandomi all'argomento di Gianluca, lo schiaffo morale che ha fatto la società a due dei primi poi rocker che sono stati, uno era Little Richards, che è stato il primo a aver fatto outing poi nel mondo del rock, che si presentava truccato in televisione per l'America Battecchettona dell'epoca, che sì. Schiaffo poteva essere stato. E poi anche lo stesso Elvis. E poi anche lo stesso Elvis, che era di destra da sempre, però che al prima serata sul Led Sullivan Show si mise a fare quel famoso mossa del bacino, immagino che queste signore americane dell'epoca, certo. Oh mio Dio, cosa sta facendo questo? Sì, Elvis Aaron Presley. C'era anche una noccia di costumi via, diciamo. È tutto strano, perché anche lì è una riappropriazione di altri contenuti e ne potremmo parlare credo all'infinito di quanto si può andare a ritroso, però insomma. E anche negli anni '80 poi un po', no? Beh, assolutamente. Beh, mi stavo pensando a questa cosa di Elvis che hai detto, a questa lotta contro i costumi, al fatto di fare outing sul palco, mi vengono in mente gli anni '80, cioè il diritto, insomma, di vestirsi da donna per un uomo, di vestirsi da uomo per una donna, insomma, un po' figlio di quel periodo là, forse. Abbiamo notizie del disperso, sembra che non sia più tanto disperso. Attenzione, l'abbiamo ritrovato? È in un limbo, è in un limbo. C'è, vediamo ma non se c'è. Ne esce. È il limbo digitale in cui non sai dove ti trovi all'interno delle varie piattaforme che utilizzi per fare il corso. Attenzione! Attenzione. Ed eccolo qua. E però è mutato, ragazzi. È mutato. Perché ricordiamo... Eccoci qua. Un attimo. Il problema di fare le dirette col telefono è che ti chiamano su WhatsApp per le urgenze e poi succede sta roba, via. Quindi non so neanche dove... dello sto computer. Ma ce l'ho davanti, ma il Mac vuole le cose, le cuffie Bluetooth, ragazzi, la roba Porsche, non voglio la roba Porsche, ecco perché. Mannaggia. Mamma mia. Accidenti. Patti, devo smettere. Cambio computer, lo giuro. E non so neanche dove mi sono stoppato, ragazzi, sinceramente, quindi fatemi un recap. Ma puoi riprendere. Siamo tornati su Gem. Bene, insomma, sì, tutto... Rap di oggi. Esatto, tutta questa manfrina sul rap di oggi era un po' per dire che comunque anche l'ultima moda in fatto di musica era stata un po' comprata e inghiottita dal sistema capitalista. Era diventato uno spot pubblicitario, fondamentalmente, no? Nomi di marche, eccetera, eccetera. Fino a che però, secondo me, la pandemia non ha accelerato questa voglia comunque di contenuti, questo bisogno di contenuti e un ritrovarsi appunto del rap anche un po' come responsabilità sociale, no? Sul fatto che si parla troppo anche di droga, su temi che sono reali, sono reali, però vengono esposti in maniera forse anche troppo diretta. E niente, con Diego ora volevo parlare anche un po' di questa corrente di attualità, appunto, di questo movimento, però anche un po' delle radici, no? Perché, per esempio, nel prossimo pezzo che vorrei farvi ascoltare, che appunto è nell'ultimo mixtape di Jamie Tights, si chiama Money Money, c'è un riferimento a Sangue Misto, una canzone di Neffa, quando appunto ancora faceva parte di questo gruppo. E, insomma, un po' di rap italiano, ecco, old school, Diego, qualche curiosità? Sì, perché se per il mainstream il rap in Italia continua tuttora a attribuirsi nella paternità a Jovanotti, no, che poi in realtà anzi, non è un così. Prodotto forse Jovanotti di una certa cultura. Esatto. Il rap è nato poi nelle posse. I primi due gruppi, se mi ricordo, i primi due gruppi rap a essere venuti fuori in Italia sono a Roma, gli Onda Rossa Posse, e a Bologna, che c'era il famoso Link, che prima ancora era Isola del Cantiere, il Centro Sociale, erano gli Isola Posse All Star, di cui faceva parte sia DJ Groof che Neffa che Deda, che poi hanno dato vita, mettendosi da soli, al Sangue Misto e a quel capolavoro che è SXM, assoluto, che continua a essere un bellissimo, assoluto, poesia, poesia. Con un pezzo come Lo Straniero, che già allora si sentiva un po' fuori luogo da tutto ciò che era l'Italia, poi negli anni, primi anni 90, cioè del berlusconismo rampante. Sì, la sensazione, eccetera, eccetera. No, che si provava un po' a quei tempi, soprattutto chi si affacciava al mondo adulto, c'era diverse incognite, però ecco, appunto, il mondo dei centri sociali era un po' la terra fertile, no, di quei tempi, dove gli scambi di cultura tra i giovani si mischiavano al rap, comunque alla musica in generale, iniziative anche come forme d'arte, e appunto tutto quello che viene anche dall'America, poi, no? I graffiti, il ballo, quindi tutti i beat boy, eccetera, eccetera. E era bello appunto fare questo parallelo, perché comunque trovo che oggi, insomma, la forma poi di libertà è sempre meno espressa. Proprio l'altro giorno leggevo e raccontavo anche, insomma, a voi ragazzi, a qualcuno di voi, che è stato arrestato questo writer che si chiama Geco, che è un personaggio appunto di Roma, no? Della scena underground di Roma, e principalmente diciamo che lui ha imbrattato un po' ovunque perché fa le tag, no? Però si è un po' mosso anche fuori dall'Italia, infatti, insomma, diciamo che era ricercato dall'Italia al Portogallo, c'era questa task force internazionale che era appunto scritto sui muri. Sì, esatto. Gli dava la caccia e trovavamo buffo il fatto che venissero investiti tutti questi soldi per poi andare a cercare un artista che fondamentalmente si avrà imbrattato qualche muro, ma non ha mai fatto male a nessuno, e sembrerebbe che sia un ragazzo, insomma, anche piuttosto giovane, a 28 anni, e non si sa ancora, insomma, se ci sono le prove comunque di questo fatto, perché gli è stato sequestrato il computer, il telefono, insomma, per vedere se ci fossero prove appunto delle sue opere, però alla fine ancora non se ne sa niente. E, insomma, l'ho trovato curioso perché lui era molto famoso a livello internazionale non solo per aver imbrattato, ma per il modo in cui lo faceva, ovvero lui faceva questo bombing su ho anche detto even spot, dove appunto lui negli angoli più rischiosi e assurdi dove si può andare a scrivere, lui appunto prendeva scale, si arrampicava, quindi una forma d'arte molto estrema anche, no? Perché va a indicare forse lo sforzo, io ho pensato a questo, lo sforzo di volersi far notare e di fare qualcosa comunque di nuovo, non è una forma d'arte, ecco, che si usa poi proprio tutti i giorni, andare a fare le firme dove non si arriva, ed è abbastanza figo secondo me il fatto che risultasse un po' come un diabolic, no? Contro il sistema e in un modo abbastanza assurdo. È una bella interpretazione, una bella idea. Sì, com'è che si chiama? Che voglio andarmela a cercare. Geco, proprio G-I-E-C-O. Okay. Sì. Ok. E la task force che l'ha seguito. Mi sa senza I, senza I. G-E-C-O. Sì, G-E-C-O. Sì, Geco, proprio così. E niente. Io vi farei ascoltare questo pezzo di Jamie Tights, anche se in questo momento i miei mezzi tecnici sono quelli che sono. E poi continuiamo a parlare di musica e niente, dai, fatemi fare questo tentativo, se qualcuno mi può aiutare dal PC, ragazzi. Lo metto io. Bravi. Bravi. Vedi? Grande regia. fottere me. Uno migliore non c'è. Sì, questo è quello che penso. Io corro nell'altro senso. Sì, ne fumo ancora un po'. Il loco il THC. Poi scorro liscio sul beat. Frate, ti piscio nell'in. Sì, ti colpisco così. Sì, faccio un disco e lo tiro. Headshot e neanche ti miro. Fresco col cash di un emiro. Ehi, Jamie ti fa come un netto di gialla. So in alto non sento chi parla. Becca l'effetto farfalla. Non stare fermo ti ho detto di farla. Non ho mai letto un libro di storia perché frate cerco di farla. Ti aspetto di là nel Vallalla. Fra Vianza e Basti ti buca la porta. Fra senti il flow ti casca la tracolla. Per la gente è cresciuta una volta. Quella che non c'è riuscita e che è morta. Lo faccio per loro. Per i miei fragiani senza lavoro. Non vogliamo niente da loro. Ehi, non vogliamo niente da loro. Yeah, yeah, money, money. Vuoi solo quelli. Sono in giro coi fratelli. Dacci il cuore. Noi gioielli. Niente Gucci. Niente Fendi. Money, money. Vuoi solo quelli. Sono in giro coi fratelli. Dacci il cuore. Noi gioielli. Niente Gucci. Niente Fendi. Yeah. Non conta la gara ma essere i più forti. Quella di appalto nel DNA. Corta lo scatto, caccia vita in gola. Porta rispetto per chi ne ha. Troppo arretrato perciò troppo avanti. Troppo arretrato io non ho pavanti. Se cerchi mi trovi sto in fondo nel mio caravan. Una prova di essenza, un'assenza di prove. Rubo per dare all'avvocato. Se ti credi leggenda sono di passaggio. La mia gente è catalogata. La mia vendetta fa mente locale. Coca mischiata in giro alto locale. Vita loca, caccia il biglietto ed un robo roga. Se mi parli Gucci e Fendi preferisco Pecci e Fede. Non basta l'accento a fine rima per farla francese. La voce se te ver chi se boivre. I parlo cash c'est pas vrai. C'est le retour de la mafia che fri version palafre. Non voglio nessuna medaglia o il capello di Vladimir Putin. Ridiamo no perché siamo felici, perché siamo tutti ubriachi. Il mio difetto è pregio, non lecco il culo di chissà chi. Voglio quello di Alicia Keys. Sto coi cazzacchi. Money, money. Vuoi solo quelli. Sono in giro coi fratelli. Dacci il cuore. Noi gioielli. Niente Gucci. Niente Fendi. Money, money. Vuoi solo quelli. Sono in giro coi fratelli. Dacci il cuore. Noi gioielli. Niente Gucci. Niente Fendi. Mi trovi ancora con i Timberland Boots. Per i miei boys in the hood. Tu vuoi soli soldi, soldi, soldi come Mahmood. Ne volevo anch'io molti, sì, ma non come fai tu. Che ne fai un po' per un po' e poi non ne fai più. Questa è la maratona, non i 100 metri. Cazzo, non basterà una scarpa nuova ai piedi se non tieni il passo. Sai per chi lo faccio, la V non è villona. Hai 20k sul polso e guardi l'ora dall'iPhone. Né Gucci né Fendi, i miei sono tutti no friendly. Roccano maglie di squadre di calcio, fra stanno in tuta sui mezzi. E parlano solo la lingua del barrio, sorrino a Bluetooth language. Porta più ghiaccio che hanno il sangue caldo, sì che ti squaglia i gioielli. E si speranza più gem, non c'è speranza per te. Sì questo è quello che penso, devi triplicare il compenso. Per ogni fratello che non ha voce, muore per un granello di una ragione. Fai bruciare nel cielo le banconote che ci finanziamo una rivoluzione. Boom, boom. Ma tra l'altro su questo pezzo non è detto che c'è anche Speranza. C'è anche Speranza, cioè... è il mitico Enzi che è l'ultimo che chiude la canzone. Si sente che anche lui viene dai centri sociali, no? Il buon Enzi. Speranza è diventato famoso con la grande hit chiamata Mammata. Sì, purtroppo sempre per stupidità, poi in realtà anche lui nel suo modo di... Ha un flow interessante, Speranza. Sì, e poi è il collegamento con la musica francese, perché ha una storia molto particolare, Speranza, esatto. Insomma, è un immigrato casertano che ha vissuto in Francia e poi è tornato, ha vissuto la situazione delle banlieue, delle giustizie sociali, è forte, forte. Infatti sta cominciando a fare le canzoni un po' in italiano, insomma, o quello che è napoletano. E parte anche in francese, insomma, che non è poco, a livello tecnico, insomma. Che tra l'altro mi hanno detto che lui urla perché è balbuziente, questa esatto. cosa lo aiuta, vero? Ah sì? Esatto, sì, sì, sì. Ci sono dei casi anche in teatro, non mi ricordo il nome dell'attore italiano, che anche lui è balbuziente, ha fatto insomma diverse cose, è anche bravo e cioè, quando recita non si sente per nulla, quindi... Sì, dei personaggi molto molto interessanti, ragazzi. Comunque la canzone è Money Money, e infatti io vi volevo dare qualche notizia della settimana riguardante il Money Money. Oh, ormai, sono arrivati i soldi dello sponsor. Il sistema capitalistico, comunque è uno dei miei principali pensieri e non riesco a smettere, nonostante insomma poi ci sia la musica e tante altre belle cose che ci distraggono. E vi volevo leggere... No! Ragazzi, vi devo salutare. Davvero? Ma ci salutiamo allora. No. Ah, allora sì, chiamalo dalla regia. Dai, ci salutiamo, se ti chiamano dalla regia. Ecco, grazie. Continuate tranquilli, grazie, ci sentiamo. Bellissima puntata. Ti ricontiamo veramente. Sì. Grazie. Bella storia, ragazzi. Quindi abbiamo fatto 1:40. Io c'ero gusto il fo. Vabbè, sentiamoci. Vabbè, se ci vuoi dare l'ultima news della giornata, Gilles, si chiude con quella e poi ci si saluta. No, questa non ve la do come ultima news, ragazzi. Vabbè. Ce la teniamo come sorpresa per la prossima. Abbiamo alzato la suspense ora, dai. Sì, esatto. Ci abbiamo Luke. A parte che secondo me nessuno ci ascolta fino ad adesso, quindi possiamo anche dire: se ascoltate questo messaggio, regaliamo soldi. Ritornano indietro e la riascoltano davvero. Quello è il bait alla fine. Buono. Va bene, ragazzi. Dai. C'è il bello della diretta. Sì, sì, oggi grandi prove, perché devo dire. È anche un po' fatica. Stretti coi tempi più del solito, ma insomma, siamo riusciti, credo, a una cosa decente. Dai, va bene. Salutiamo il nostro ascoltatore. Grazie ascoltatore, esatto. Tu che ci vuoi dare? La regia, ragazzi. È stato un piacere. Alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you know? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. I tell you, don't you say it no more. I will help my friend. Gonna get out of my friend. I will help my friend. Yeah. Do you and it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it so feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. I'm gonna get on back. I'm gonna take them all along. I'm gonna take them all along.